La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato all'invenzione della moneta, nel suo stravolgimento da strumento a fine, da norma a merce. Sta la degenerazione che essa ha subito nel corso della storia. Ospite ai nostri microfoni Giorgio Ruffolo, autore del volume Testa e Croce, una breve storia della moneta, edito da Einaudi. La parola adesso va a Dino Pesole. Se si guarda ai cicli storici, la moneta, tutto sommato, è un'invenzione recente. La si può datare all'anno 390 p.C., quando i Romani, dopo aver respinto l'attacco dei Galli, dedicano alla dea Giunone il tempio a Giunone moneta. Per circa 2 milioni di anni, gli uomini avevano fatto a meno della moneta. Lo scambio, invece, scrive Giorgio Ruffolo, nel suo libro Testa e Croce, appena pubblicato da Einaudi, è antichissimo. Nasce in pratica con l'uomo sotto forma di dono. Non ci fu per moltissimo tempo la moneta e per lunghissimo tempo il suo ruolo fu svolto da beni materiali desiderati per la loro utilità, come gli spiedi, le asce, gli animali, gli schiavi, o per la bellezza e il piacere che offrivano. Nella sua forma concreta, la moneta assume fin dall'inizio due qualità fondamentali: quella di merce, connessa con lo sviluppo degli scambi, e quella di istituzione, connessa con la sovranità politica. È il principe a coniare la moneta, dichiarandone il valore stabilito in base al suo contenuto metallico, d'oro o d'argento. È il mercato a convalidarlo o a confutarlo nell'esito degli scambi. Il principe propone, il mercato dispone. Pare quanto mai utile e interessante dunque ripercorrere questa storia della moneta in un momento quale quello che stiamo vivendo, in cui si parla di sovranità dei mercati nelle decisioni di politica economica e anche istituzionali e politiche dei singoli governi, e si mette da qualcuno in discussione anche il rilievo e la portata storica del traguardo della moneta unica europea. Se regola gli scambi e la vita dei nostri giorni, vale la pena di ricordare che la moneta alla fine è uno strumento, in sostanza una convenzione. La moneta non emerge dalla mente di un uomo. È il risultato di un processo storico che durò millenni. La caratteristica essenziale di questo processo era lo scambio diretto di beni, merci contro merci. Il baratto, che assume per lunghi secoli forme differenziate e complesse, da quelle di una redistribuzione autoritaria a quelle di transazioni di mercato. E anche queste si svilupparono in forme differenti, dall'incontro nei centri urbani al commercio invisibile. L'unità premonetaria era il capo di bestiame, il caput. Nel tempo si individuò un sostituto, i metalli con cui si fabbricavano utensili e armi. Poi nel corso dei secoli e fino ai nostri giorni, la moneta, come sappiamo, ha assunto via via un ruolo centrale e più sofisticato nel regolare i rapporti commerciali, economici, ma anche politici e diplomatici tra gli stati. Ma la moneta, dicevamo, è un'invenzione, è uno strumento, non un fine. Nel suo stravolgimento da strumento a fine, scrive Giorgio Ruffolo, da norma e merce sta la degenerazione che essa ha subito nel corso della storia. Buonasera, professore. Sera. Cosa ha scoperto in questo suo inedito viaggio nella moneta? Ma soprattutto la contraddizione alla quale lei adesso si riferiva. L'enigma della moneta lo definirei, e cioè la contraddizione tra la moneta assunta come uno strumento, cioè un'unità di misura e un intermediario degli scambi, e la moneta invece assunta come ricchezza, come fine, come una ricchezza che si può accumulare. E in questa contraddizione sta all'origine dei nostri guai, anche dei nostri guai attuali. Il fatto che non dovrebbe poter essere la moneta nello stesso tempo giocatore e arbitro, strumento e fine. E invece è proprio così. Nella moneta coesistono oggi queste due, come dire, qualità, questi due aspetti. E questo origina dei guai seri dai quali si trae origine la crisi che stiamo attraversando. E questa crisi che io tento di descrivere in questo libro, alla quale tento anche di offrire un'alternativa più piuttosto radicale, perché sì. Si tratta di rientrare, del rientro della moneta nella economia e della economia nella politica. Nel capitolo decimo lei parla di moneta senza fine o fine della moneta, con punto interrogativo, nel senso che si può immaginare che si possa fare a meno della moneta, è una provocazione. Sì, è una provocazione, ma è anche qualche cosa di possibile. Dalle prime forme di moneta, quelle molto materiali, quelle che riguardavano, come avete ricordato, il bestiame o più tardi l'oro, si va poi alla più banale delle forme, quella della carta moneta, e poi alla fine si va a qualche cosa che è immateriale e addirittura invisibile, un click. La moneta è oggi nient'altro che un click sui tasti di un computer, ma da qui ad essere una semplice iscrizione che non implica scambi e materiali ci passa poco, e quindi possiamo quindi immaginare che nel futuro la moneta sarà una iscrizione e non una materia. Il principe propone, il mercato dispone, come dire, che in qualche modo poi alla fine è il mercato che decide, come stiamo vedendo. Sì, lo stiamo assistendo appunto, esatto, a una caratteristica deviazione da quella che avrebbe dovuto essere il fine e lo strumento della moneta, al fatto che la moneta è diventata essa stessa ricchezza ed è la moneta che muove l'economia anziché l'economia che si vale della moneta. E questo è il problema dei nostri tempi, ma non è stato solo il problema dei nostri tempi. No, è stato il problema di quelle che si chiamano, di quegli episodi che vanno sotto il nome di bolle, sì, come la famosa bolla dei tulipani olandesi o la grande crisi del 1930. Soltanto che nel passato si trattava di episodi, ora si tratta di una condizione permanente della moneta, una condizione che deriva dal fatto che i debiti si rinnovano continuamente, l'indebitamento si rinnova continuamente, e un economista, Mark Bloch, afferma che il capitalismo è quello strano regime nel quale i debiti non si pagano mai, o meglio, si tenta di non pagarli, poi viene il momento in cui si devono pagare, il momento in cui le onde della moneta non si accavallano più le une sulle altre, ma si infrangono sulla riva, e allora siamo di fronte alla crisi della quale un economista, Galbraith, dice che è quella nella quale gli sciocchi sono privati del loro denaro e purtroppo, certo, però anche i lavoratori del loro lavoro. In una fase della storia l'unità premonetaria, lo abbiamo ricordato, era il caput di bestiame, e il capo di bestiame da cui peraltro origina il capitalismo. Esatto, origina la parola capitalismo. Una parola fondamentale. Nella storia. Non sarà che c'è, alla luce di quello che sta avvenendo oggi, anche un vizio d'origine del capitalismo? Può essere che l'attuale situazione conduca anche a un deperimento e a una fine del capitalismo. Il capitalismo non è eterno, anche se, come ho scritto in un altro libro, ha i secoli contati. Ah, già, è vero. però sono molti secoli, quindi sì, bisognerebbe contarne molti, professore. Appunto. Dunque, poi a un certo punto lei parla nel suo libro, ripercorrendo gli anni che vanno tra il 1913 e il 1929, anno in cui poi scoppiò la grande crisi mondiale del 29 con il crollo della borsa di Wall Street, parla appunto dell'egemonia americana sulla moneta. Ci sono state egemonie anche di altri paesi nel corso della storia sulla moneta? C'è stata prima di tutto la grande egemonia italiana, sì, dai secoli del Medioevo fino al Rinascimento. L'Italia era il paese dominante nell'economia, e se lo chiedono gli economisti, se è anche la fondatrice del capitalismo. Alcuni pensano di sì, altri di no. Io penso che non sia capitalismo quello italiano del Medioevo, per una ragione molto semplice, che il capitalismo ha bisogno dello Stato e l'Italia aveva pensato di fare a meno dello Stato, un tragico errore storico che condannò l'Italia a secoli di stagnazione economica e di servitù politica. Un'ultima domanda, professore. Lei ritiene che sia questo giunto il momento ora di mettere in piedi, se ne è parlato negli anni scorsi, una nuova Bretton Woods, cioè come dire, un nuovo sistema che ridisegni gli equilibri basati appunto sullo schema che venne definito a Bretton Woods nel 1944? Ritiene che sia giunto il momento? Io penso proprio di sì, del resto lo pensano anche i cinesi. Il presidente della banca cinese ha proprio dichiarato che sarebbe opportuno finalmente che il sistema monetario fosse governato da una condizione che era stata prevista dal grande economista Keynes, una condizione di moneta mondiale, di moneta come unità di misura e non il cosiddetto bancor, una moneta che regolasse gli scambi mondiali sulla base di una partecipazione di tutte le economie e di tutti gli stati allo stesso ordine monetario. Grazie professor Ruffolo, buona serata. Grazie a lei.